YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, la terza ora del sabato del villaggio che diventa Ciao, Radio Marta. YouTube, la mia terza ora preferita. Ciao Daniele. Ciao, sono i giorni della merla. Quanti sono i giorni della merla? Tre direi, credo. Tre. Siamo a metà, sì, quindi. Sì, siamo a metà, mentre stiamo la fine del sabato. Scollinando la merla. Ok. Però non so se hai notato che a quest'ora comincia già a essere abbastanza chiaro, che prima quando iniziava Radio YouTube era un po' più... Sì, brava. Invece adesso... È vero, è vero. Maledetta è vero, primavera, sta arrivando, maledetta primavera. Da quando? Me lo chiedevo questa settimana. Da quando si inizia a parlare della primavera? Da che giorno della settimana? Da quando del inizia mese, della settimana, della settimana. Del mese. Tutti i lunedì. Una settimana, perché pazzito. Detto, no, mercoledì. Sai quando? Quando? Allora, l'estate comincia con la prima pubblicità del gelato e la sì, primavera inizia sì, col Festival di Sanremo. Già settimana 14, sì, sì, quindi San Valentino. No, da no, dal primo giorno, dal 9 febbraio basta, per me è primavera. Ah, ok, va bene. Maledetta primavera. Ne parlerai, soprattutto, ne parlerai sì. O ne parleremo. Comunque, voi potete scriverci su il Twitter a @MartaCagnola, @DiBellasio, hashtag RadioTube, hashtag ISDV per il sabato del villaggio. Questa è la trasmissione che racconta dei personaggi che si creano nella rete e vanno in televisione, dei personaggi della televisione che sfruttano anche la rete. La scorsa settimana abbiamo avuto il... Ma infatti hai preso un abbrivio. Sì, esatto. Ero qua che ti guardavo stupita. Sì. La sai che dopo abbiamo The uno Pills. Dei... Sì, la scorsa settimana hai The Pills, ma in questa poi dopo abbiamo uno dei miei conduttori modello, dopo di te. Dopo così vi facciamo andare delle lezioni. Restate lì, abbiamo un conduttore bravissimo. Allora, la settimana scorsa i The Pills sono venuti a festeggiare il loro primo film. Sì. Sempre meglio che lavorare. A RadioTube. Sì, The Jackal hanno sbagliato e non sono venuti a RadioTube. Vabbè, ma li invitiamo, ragazzi. Mica starete sempre a Napoli. Venite un po' anche da noi a trovarci. Sì. Allora, dove sono andati? Grandi stelle della rete, appunto i The Pills, che, dei quali abbiamo parlato tanto da YouTube, sono sbarcati al cinema. Invece i The Jackal sono su YouTube. La concorrenza dei The Pills. Ma non si conoscono, so, ma saranno amici. Ma sicuro che sono amici, dai, sulla rete sono tutti un po' amici. Allora, hanno festeggiato il primo milione di iscritti. E dove vai quando tu hai un milione di iscritti a Facebook? Io ci sono quasi, quindi... Davvero? Guarda, ti ci vedo da lei, continuo a criticare gli juventini per far salire i follower sia su Twitter sia su Facebook, ah, sai? Ecco come fai. Assolutamente, a fare... perché siccome noi spesso, soprattutto ultimamente, perdiamo, loro pur di insultarti, un po' criticare, non insultarti, no, a prenderti in giro, ti seguono. E così l'audience, lo share sale, capito? Sono io ho messo in mute, cioè ho zittito tutti gli hashtag calcistici. Tu sai sì. Zittire gli hashtag? Sì, dipende dalle app che usi per vedere Twitter. Ma sei un mito, convochiamo certo, Pagliarini. Quando c'è la partita dell'Inter io zittisco Amala, così non vedo niente, no? Ah, ho capito, ecco perché non mi segui spesso, per non seguire tutti gli juventini. No, vabbè. No, allora i The Jackal non sono venuti da noi, non sono ancora andati. The Jackal, venite. Sì? Da Barbara D'Urso, che ma sarà peraltro vero? È una star anche di Twitter, accidenti, di Facebook. Ma sarà vero? Non lo so, però... Noi ce li io ce non l'abbiamo. È che guardi proprio sempre la sua ma trasmissione. Ma solo perché sei in redazione a quell'ora lì. E sono come la canzone di Fedez, sei presente? Cioè? La conosci? Ah certo, quella anche col si video. Si può cantare alla radio? No. Vabbè, se hai il coraggio canta. No, no, perché no. C'è la parola tette, non la posso dire alla radio. Io sono un bravo bambino. Va bene, allora vediamo i The Jackal, sì? Mostriamoli alla radio da Barbara D'Urso. Questi ragazzi molto molto particolari, perché loro vengono dalla periferia di Napoli, la periferia quella la più violenta, quella nella quale la periferia si esce... è normale, non succede sì, niente, cioè è una cittadina tranquilla, città, non mai successo niente. Sì. Loro hanno iniziato facendo i pizzaioli, quindi hanno aperto questa pizzeria. Noi facciamo video su internet, sul web. Siamo napoletani, però non è che tutti i napoletani fanno la pizza. Sono molto divertenti, mi hanno contattato per questo, però non bisogna dimenticare il loro passato, la loro vita e i loro drammi. Perché, per esempio, Simone ha avuto questo shock da piccolo perché il suo migliore amico Ciro è morto. Amaro Carmona, Barbara, lui è Ciro. Ma quindi era vero? No, secondo me non era vero. Hanno fatto uno sketch. Uno scherzo. Non lo so, lo chiediamo a Ed Jekyll. Ma la cosa bellissima, la cosa bellissima è che io quando l'ho visto su Facebook, che ti ho mandato subito ieri il link, ma l'avevano postato da 20 minuti, avevano già 300.000 visualizzazioni, una cosa incredibile. E sai che quando tu me l'hai fatto vedere, sai cosa mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente, si vede che lo sai, però se dici così, scusa, recita, vai un po' di sorpresa. Ma allora, un po', Daniele, cosa ti sarà mai venuto in mente? Vabbè, è un audiodramma. Si vede che lo sai, abbiamo la scaletta. Allora, mi è venuto in mente il fatto che, siccome diceva Ciro è morto, ma Ciro è lui, tutto, mi è venuto in mente che il primo video virale della TV italiana, secondo me, è questo qui. Sarà questo qua, eccolo. Pronto? Pronto, Sandra. Sì? Ma che fai? Ma non sai che tuo figlio Ciro è stato ricoverato gravissimo a 100 anni? È gravissimo per un incidente, ma che ci fai? Oddio, chi parla? Oddio, chi è? È grave, è grave. Chi? Ciro, dove? Oddio, no! Grande. Virale prima che ci fosse video. Prima dei video virali, sì. Prima della parola virale. Secondo me non c'era neanche ancora. Però grazie a Blob, grazie al fatto che l'abbiamo visto, rivisto. No, scherzo non eravamo di pessimo ancora nati, gusto. Non eravamo ancora nati. No, mi sa che sì. Mi sa di era colori. Di tanto, comunque sì. Era uno scherzo, ovviamente, di cattivissimo gusto. Ma ne, sarà stato ne parlò vero? Anche il telegiornale. Ma sarà stato vero o era una messa in scena anche quella? Chissà. E non lo so, tu che l'hai incontrata, chissà, Sandra sì, Milo. Recentemente, non potevi Sandra chiedere. Milo. Che salutiamo, grandissimo. Però è uno dei grandi temi della settimana. No, finalmente parliamo di nudi. Statue nude. Statue nude. Abbiamo visto statue nude dappertutto. Ma no, vista anche una. Ma su Facebook hai visto? Lì è venuto fuori il meglio. La statua con la scatola che poi si vede solo la così. Poi Ruani che torna e dice: bella l'arte cubista italiana, però. E insomma, su internet ha scatenato. Però è una gaffe seria, non si sa. Però. Allora, visita del presidente iraniano Rouhani in Italia. Vanno a visitare i musei capitolini. Ma le statue ci sono delle scatole. Scabrose. Ci sono delle scatole con dentro, io non so, i commessi del museo. Sì, chissà cosa c'era. Sì, secondo me hanno nascosto la qualunque dietro quelle scatole. Hanno nascosto le statue. Lui probabilmente era arrabbiato perché, secondo me, voleva vederle. Ci portate ai musei capitolini, non mi fate vedere le statue. Non lo so. Qualcuno ne ha parlato, ne avrà parlato Crozza. Ne hanno parlato ne avrà detto qualcosa. Sentiamo cosa ha detto, che io non lo so proprio. Perché noi siamo nel XXI secolo, giusto Giova? Sì, lo siamo. Infatti oggi è arrivato il presidente dell'Iran, che proprio incarna il XXI secolo. Lo rappresenta così tanto che oggi ci ha fatto coprire con degli scatoloni bianchi delle statue romane di 2000 anni fa, che sono copie di statue greche di 2600 anni fa, perché rappresentavano dei corpi nudi. Cioè praticamente la Venere capitolina ce l'ha fatta diventare una scarpiera dell'Ikea. Quindi ricapitoliamo un attimo. Oggi un signore con un asciugamano in testa ci ha fatto coprire delle statue di 2000 anni fa perché si sentiva offeso da due zizze di marmo di 2600 anni fa. Che poi voglio dire, noi viviamo in un paese straordinario, perché non è che ce le ha fatte coprire lui, cioè ce le non siamo si sa, coperti sì, da soli, ma l'indagine. Non si sa chi le ha fatte coprire. E addirittura scatta l'indagine, quasi, lo so. Perché si sono trovate queste statue scatolate e hanno detto, no, ma poi l'immagine era comica di per sé. Dai, comunque. L'immagine era proprio peggio della scarpiera dell'Ikea contro invece. Sì, ma anche avere perché, nulla che... cioè, portalo sembravano da un'altra parte. Quei lavori in cartongesso, quando devono coprire una roba per un po' di tempo. Ma no, vabbè. Ma anche perché paradossalmente avevano una forza visiva molto potente. No, infatti, quindi... noi italiani abbiamo scoperto che ci devono essere delle statue pazzesche. Tutti i musei capitolini usiamolo come lancio. Se non alle scuole elementari. Ma dall'Iran verranno un sacco di persone, di turisti a vedere i musei capitolini. Andate a vedere i musei, ne parliamo dopo. Sì, ne parliamo perché dopo. Perché adesso c'è ancora il traffico? C'è sempre il traffico a quest'ora? Sì, no, cioè, ci no, sono nel senso, le informazioni sul traffico. Per il traffico a tra poco. Radio Tube. E torniamo insieme dopo il traffico. Abbiamo sentito un po' di ironia da parte di Maurizio Crozza sull'affare delle statue coperte ai musei capitolini per l'arrivo del presidente iraniano Rouhani in visita ufficiale, appunto, con... Che però è un argomento anche serio. È un argomento serio, però, allora, un po' di ironia c'è stata in rete. Ne ha parlato Maurizio Crozza. Sai che ha fatto una canzone anche Dado, che è sempre uno che simpatico. Sa fare delle cose carine, taglienti sui fatti di cronaca. Beh, sentiamo un pezzettino come ha interpretato questo affair Dado. Le statue stanno finendo dietro dei paraventi, i culi stanno coprendo perché sono indecenti agli occhi di Rouhani, dell'Iran presidente. I seni son profani, il pene è impertinente. Beh, devo dire, le parole chiaro, sono... Diciamo ma, chiaro, dai, metti. Però è vero, scusa, ha fatto dell'ironia, però è tutto vero. Ma tutto sentiamo, vero. Allora adesso ritorniamo a essere un po' seri, sì, perché dobbiamo anche parlare in maniera seria di questa notizia. No, anche perché di questa cosa ne ha parlato la stampa internazionale, è finito sui giornali di tutto il mondo, è diventato anche un episodio sgradevole da molti punti intanto di vista. Intanto sentiamo come il ministro dei beni culturali Franceschini ha al momento definito la vicenda. Non era informato né il Presidente del Consiglio né il sottoscritto di quella scelta di coprire le statue. Io penso che ci sarebbero stati facilmente altri modi per non andare contro la sensibilità di un ospite straniero così importante senza questa incomprensibile scelta di coprire le statue. È tutto vero, tutto condivisibili. Certo che tutto quello che è successo in maniera molto strana, ma il pasticcio è stato fatto. Daniele, con chi vogliamo parlarne? Allora, io ho letto un bell'articolo e anche un efficace commento su Facebook, sì? Di un ex ministro della cultura, ex sindaco di Roma, tra l'altro animatore di una importante fondazione che si chiama La Prossima Roma, e abbiamo al telefono Francesco Rutelli. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, se a lei... Se non può esservi divertiti, adesso è la fase in cui ci si annoia. No. Promettiamo che non la facciamo cantare. Beh, a parte che altro. Comunque lei è stato cattivo perché ha dato dei giudizi netti, per cui non ci si annoierà, mi sa. Va bene. Sì, perché no, è stato... posso anche cantare, se volete. È stato... Non ha lasciato adito a giudizi anodini. Ha parlato anodini, di gravità colossale, ecco. Una pazzia assoluta, un sacrilegio. Come è potuto succedere, senatore? Beh, è un fatto veramente enorme. Io penso che molti dei visitatori che entreranno nei musei capitolini, che come voi sapete sono una collezione che origina forse con la più antica donazione pubblica, fu Papa Sisto IV, 1471, prima della scoperta d'America, a decidere di donare al Campidoglio alcune delle fondamentali statue che poi sono nucleo iniziale dei Musei Capitolini. Poi nel 700, prima del Louvre, fu un Papa, Clemente XII, che creò i Musei Capitolini riprendendo il disegno michelangiolesco. Poi Benedetto XIV addirittura non solo tollerò, promosse un'accademia del nudo nella metà Settecento dentro i Musei Capitolini. Allora che dopo due secoli e mezzo succeda un fatto del genere, secondo me meriterà che quando le guide turistiche accompagneranno qualcuno per i Musei Capitolini, quel qualcuno chiederà loro: mi fa vedere la statua? Certo, quelle sì. Che sono mi fa state vedere coperte. Le tette che non si potevano far vedere, che sono tra l'altro commendevolissime, in particolare quelle della Venere Capitolina. Adesso abbiamo anche curiosità, ma magari spinge qualcuno di più a andare a vedere. Lei ha anche raccontato un aneddoto autobiografico. Beh, sì, diciamo, nella mia lunga vicenda familiare abbiamo tante storie da raccontare. Io ho un trisnonno che è quello che ha progettato l'ampliamento dell'arsenale di Venezia, ho un altro trisnonno che dall'altro lato della penisola a Palermo era il costruttore del Teatro Massimo di Palermo, che allora era la più grande fabbrica del Mediterraneo, appunto uno dei figli di Giovanni Rutelli, che costruisce a metà 800 il Teatro Massimo, il grande scultore Mario Rutelli, che viene a Roma a fine secolo, vince il concorso per realizzare questa grande fontana di Piazza delle Zedra, perché così si chiama, ancora i romani la chiamano così, è Piazza della Repubblica, ma in realtà è una delle esedre delle terme, e dunque in questa piazza, da dove inizia Via Nazionale, era un po', doveva essere il simbolo della modernizzazione di Roma, perché lì arrivavano i treni. Allora fu fatta una fontana che fu scandalosa. Ecco! E come si vede bene adesso, tuttora, perché i bronzi sono bronzi di bellissime donne nude, ci sono un sacco di stornelli, di sonetti che scherzano sul tipo di posizioni che queste donne occupavano in lotta, sono delle naiadi, delle nereidi, in lotta con elementi marini. Doveva essere inaugurata all'inizio del 901 e il consiglio comunale indugiava, perché i conservatori dicevano: non se ne parla, è una vergogna, queste donne nude non possono essere il luogo, diciamo, segnare il luogo di ingresso della Roma moderna. L'inaugurazione avvenne a furor di popolo. Gli studenti andarono a prendere Mario Rutelli nell'albergo vicino a Quirinale, dove si trovava, in trionfo sulle spalle, gli studenti dell'università lo portarono alla fontana, buttarono giù le palizzate che la tenevano preclusa alla vista e pare dettero una mancia al custode dell'acqua marcia, quella sarebbe oggi la CEA, l'azienda certo, dell'acqua, il quale si prestò, girò il rubinetto, spartirono gli schizzi, fu inaugurata tutte queste nudità sono rimaste da allora patrimonio di tutti, dei turisti, dei romani e dei visitatori. Io avevo una domanda che mi veniva dal fatto che, vabbè, ho letto sulla stampa, probabilmente appunto avrà sicuramente letto anche lei, che si parla di lei come possibile direttore dell'UNESCO. In questi giorni se ne è parlato sulla stampa italiana, ma la domanda che io le volevo fare è: questo è stato sicuramente un pasticcio burocratico che poi in parte è diventato anche mediatico e tutto il resto, però c'è chi si pone il problema di come contemperare l'affermazione della propria cultura e il rispetto delle culture degli altri, perché questo pasticcio burocratico per eccesso di politically correct nasce però proprio da questa esigenza. Come si può fare? Beh, diciamo che secoli di protocollo e di cerimoniale sono detti a questo, perché come voi sapete perfettamente ci sono centinaia di milioni di persone nel mondo che non si stringono la mano, esatto, ma magari congiungono le mani e si inchinano. Quindi un bravo responsabile del protocollo è quello che spiega al primo ministro, al ministro degli esteri, al sindaco, eccetera, che quando arriva un ospite che ha una tradizione, non bere l'alcol, ad esempio, non gli si presenta con tappando una bottiglia di spumante. Io ricordo uno degli episodi più divertenti della mia esperienza di sindaco, fu il protocollo della regina d'Inghilterra prima dell'arrivo nel 2000 di Elisabetta a Roma. E la doveva accogliere, poi accompagnare per il Campidoglio, visitare appunto Marco Aurelio e così via. E poi la veduta sui favori. E non mi era mai successo, non mi sarebbe poi ancora mai più accaduto, che il protocollo venisse apposta da Londra per spiegarmi cosa non dovevo fare. Certo. Non dovevo prendere la parola per prima, non dovevo fare le domande, non dovevo stringerle la mano se lei non me l'avesse porta precedentemente, mai avrei dovuto dare una pacca sulle spalle al principe. Ha commesso qualche errore? Le è scappato qualche errore? No, devo dire, dopo 3 minuti che stavamo insieme, era il principe a darmi pacche sulle spalle. La regina, ci siamo anche baciati. Fantastico. Cioè, perché si è sciolta la conversazione. Cioè, dipende. Mi disse il principe, vede, il protocollo è un ottimo sistema per non dover dare confidenza alle persone che non ti stanno simpatiche. Bellissima, bellissima. Voglio del protocollo anche in radio, allora. Questa è straordinaria. Io ho un'ultima curiosità, Rutelli. Questa situazione è un po' particolare a Roma, proprio dal punto di vista istituzionale. Un po' particolare. Dai, bello eufemismo. Fammi pennellare la domanda, non voglio proprio entrare così a gamba tesa. Ha reso più difficile, più complicata la gestione della città, della situazione? Potrei rispondere con il titolo di un film: Nessuno è prefetto. beh, con i film con beh, Marta va facile. Nessuno è prefetto, è bellissima, mi è piaciuta molto. Beh, ragazzi, sono stata... bravissime persone che però magari hanno meno esperienza, meno conoscenza di questi strati, no? Di millenni. Certo. Bene, io ricordavo questo articolo che gentilmente Bellagio ricordava sull'Unità, che nello spazio di 20 metri sui tempi d'oggi, i resti, le mura del Tempio di Giunone Moneta. Quel muro residuo indica la radice della parola universale moneta. Se lei sale 20 metri più verso la piazza, c'è un luogo che si chiamava anticamente Asylum. Il concetto è la parola di asilo. Se lei scende 30 metri più verso il foro, c'è l'edificio del Tabularium. Il Tabularium erano gli archivi della Roma antica, e da quel luogo partì l'ordine di effettuare il censimento sotto Tiberio, che avrebbe appunto ordinato la famiglia di Nazareth, dove c'era Maria incinta, di spostarsi verso Betlemme. Eventi pazzeschi, colossali, che condizionano la nostra cultura, di cui secondo me, purtroppo, molta parte di noi stessi cittadini romani e non solo, ignoriamo il significato e l'importanza. E quindi forse, ecco, quando arriva qualcuno e dice: ma mettiamo una tavola di compensato, così non si vede magari questa scultura, quello non si offende, ecco, non ci si rende conto che alle spalle, in quei luoghi e in quei simboli, ci sono millenni che sono il fondamento stesso della nostra identità e di una identità che è diventata universale. Eh sì. E che magari i nostri ospiti vorrebbero vedere invece che non grazie mille, grazie. Grazie mille Francesco Rutelli per essere stato con noi, per grazie aver condiviso anche dei ricordi molto molto belli. Grazie, sì. Alla prossima occasione. Arrivederci, a risentirci. Sa tutto di Roma, incredibile, tutto. Fantastico, che belle cose, che Roma, belle cose. Roma. Daniele, una breve pausa, ci e ritroviamo poi... tra poco e poi c'è, vabbè, non lo scopriamo lo dopo più. E poi c'è cosa c'è dopo, tra poco. Radio Tube. Daniele, sei contento che adesso abbiamo un ospite, sì, che tu perché, desideravi no, da un sacco di tempo? Come sai, questo corso di buona conduzione che io ho iniziato due anni e mezzo fa o tre, adesso mi ricordo neanche più, con te, ha bisogno ogni tanto di fare degli stage, diciamo, con professionisti seri. Sono due anni, ma sulle spalle te ne senti 15. I capelli bianchi. E come sai, perché te lo dico da tantissimo tempo, che secondo me uno dei più bravi, se non il più bravo... Mm-hmm. Soprattutto per quel mondo, per quella televisione, è Cattelan. Ah, ti piace Alessandro Sì, Cattelan. Perché lui ha un modo di condurre totalmente naturale, cioè sembra veramente lì che si diverte, poi ogni tanto sa scomparire dalla trasmissione, che per un conduttore secondo me è una cosa decisiva, lì soprattutto sui talent, si dice, no? Ancora talent, si può ancora dire. Quindi secondo me è molto bravo. Allora, è ricominciato e poi c'è Cattelan e PCC, perché è già formato chissà hashtag. Chissà chi ha inventato quel nome, esatto, tra l'altro. Ma non poi lo so, chiediamo. Sai che il problema di una trasmissione è trovare sempre gli ospiti. Sì, e che si prestino a... Che si prestino, allora lui subito... E poi c'è Cattelan, ha parlato della difficoltà di trovare gli ospiti. Un grandissimo ringraziamento va fatto a Cesare Cremonini, come avete visto ha aperto anche questa edizione, l'anno scorso è stato il nostro primo ospite, si è divertito così tanto che quest'anno ha preferito buttarsi da una macchina in corsa piuttosto che venirci a trovare in studio. No. No, almeno è stato onesto. Chi fa il nostro mestiere deve confrontarsi con un sacco di bugie. Di solito ascolta un sacco di menzogne, di scuse noiosissime per gli ospiti che non vogliono venire. Solitamente se non vuoi andare da un programma, la prima scusa che hai è: mi dispiace, sono su un set. Che vuol dire non ho idea di chi tu sia, di base. La seconda è: ho l'influenza. Che di solito vuol dire vado solo da Fazio. La terza è: ma scusami, ho appena incassato 65 milioni di euro con un film. Da te vengo. Da te la prima puntata. Come dargli torto, d'altronde, anche al grande Checco Zalone. Allora, non è sul set, non ha l'influenza, non ha incassato 65 milioni con un film, semplicemente perché recentemente non è uscito con un film, e ce l'abbiamo quindi con noi al telefono Alessandro Cattelan. Ciao Alessandro. molto più, sono molto più comodo. Buonasera, come state? Ciao. Benone, che meraviglia. Senti, e poi c'è Cattelan. Ma come sta Cremonini? Tutto a posto, no? Come? Cremonini tutto a posto? Sta bene? Ma lui sì, immagino anche a casa, sì. Si no, è buttato da una vettura in corsa pur di non venire ospite. Sì, beh, sì, carino lo sketch che hai fatto con Cremonini, molto grazie, molto carino. Allora, 244.000 spettatori con l'1,72% di share, che vuol dire tutto e vuol dire niente, perché ormai la TV nuova significa che lo puoi vedere in quel momento, lo puoi vedere come ho visto, l'ho visto io un po' di ore dopo, on demand, sì, lo puoi vedere in tanti modi. Tu come la vivi questa TV nuova e diversa, Alessandro? Perché tu di esperienze ne hai fatte tante. Sì, no, devo dire, io molto bene, perché c'è ovviamente meno pressione immediata. Diciamo che poi per quanto riguarda la parte tecnica degli ascolti a Sky, quello che fa fede è il cumulato a fine della settimana, perché appunto un tipo di visualizzazione, un tipo di fruibilità per cui la gente magari non lo vede subito, lo vede il giorno dopo, se lo registra, insomma è una televisione un pochettino più a portata di essere umano con degli impegni. Sì, noi ce lo siamo visti il giorno dopo a mezzogiorno. Ma sì, perché poi il pubblico di una trasmissione come la tua è proprio il pubblico quello lì che se lo gestisce da solo. Sì, è un pubblico, diciamo sì, un po' per fortuna che magari c'ha tante cose da fare, un po' smart, quindi magari non ha giustamente il tempo e se ha la possibilità. Io ero al cinema a vedere Tarantino. Per questo non ti ho visto in diretta. Ma sì, solo ma se uno c'ha cose da fare è sempre meglio che le faccia, piuttosto che guardarlo. Però se poi devi guardare la TV, spero che guardi me, ecco. Allora, Alessandro, voleva sapere Daniele com'è nato il sì, titolo. E poi c'è Cattelan, che è stupendo. Ah, grazie, guarda, mi ricordo proprio la riunione in cui stavamo valutando un paio di proposte, avevamo buttato lì un po' di idee, non mi ricordo le altre, cioè, perché ormai mi sembrava che poi c'è Cattelan sia la roba più naturale del mondo, in realtà c'erano state tante altre proposte. Avevamo anche un po' paura che sembrasse un po' presuntuoso, come se, eccomi qua, arrivo io, in realtà il nostro punto di partenza era... Visto che c'è già un botto di altra roba, visto che andiamo in onda tardissimo, alla fine poi ci siamo anche noi, nel senso, in quel piccolo... Beh, poi è una trasmissione diversa dalle altre, no? Comunque una trasmissione particolare. Sì, ma il nostro intento per quanto riguarda il titolo all'inizio non era così, anche perché non sapevamo se poi sarebbe stata così diversa dalle altre. È una trasmissione che si fa molto giorno dopo giorno, ogni ospite ti cambia completamente quello che tu puoi avere in mente di fare. Questo è interessante. Idea. Cioè, le cose che voi fate, sai cosa c'è, Alessandro? Sta imparando a fare il bravo conduttore. Bravo. Quindi adesso devi avere un attimo di pazienza, grazie, perché lui sta. Poi cerca di copiarti, di ispirarsi a te, però sta ancora imparando. No, quindi abbia un attimo di pazienza. È una noia mortale, no? Scappa. No, infatti. No, però ero incuriosito dal fatto di sapere se queste cose vengono più da voi con gli ospiti, perché insomma nella tua trasmissione gli ospiti sono chiamati a fare delle cose, per esempio con Max Pezzali hai fatto una roba carina, ma nascono assieme con l'ospite, oppure voi proponete all'ospite di dire: ma senti, perché non vieni qui e facciamo una roba stupenda con i droni? Come nascono? No, è un po', allora quelli pagati per trovare delle idee siamo noi. Ecco. Quindi la prima lista di idee le facciamo noi. Poi però la cosa bella che devo dire, mi ha molto stupito di questo programma, è la disponibilità degli ospiti, per cui molto spesso loro vengono, alcuni, chi magari è più della zona di Milano, che quindi insomma non deve affrontare un viaggio, viene proprio con noi in redazione i giorni prima a scrivere le puntate. Lo sketch con Cesare lo abbiamo scritto al telefono insieme tra una telefonata e l'altra. Ha voluto ognuno... lui avere la vestaglia leopardata? Ti giuro sì. Guarda, lo conosco. Ma sai cos'è la cosa bella del fare queste cose? Che sembra che gli ospiti non vadano lì, e infatti non è per quello, per fare promozione. Questa è la bella diversità della trasmissione, no? Sì, è una cosa che magari all'estero è un pochettino più normale. Certo. Nel senso, in realtà poi la promozione la fanno e secondo me è anche molto più funzionale. Esatto. No? Nel senso, perché comunque poi la gente magari scopre un lato diverso. Tanto di chi è abituato a stare sotto i riflettori, quello che pubblicamente c'è da sapere lo si sa già, magari sono alcune sfumature del carattere, per esempio, ma anche proprio banalmente, visto che poi il nostro indirizzo è quello, tutti hanno una parte giocosa, che però è difficile che venga fuori solitamente in televisione. Io punto molto a tirar fuori quella, mi piace divertirmi con loro e tutti hanno voglia di fuori in qualche modo questa parte, ecco. Daniele, hai citato Max Pezzali. Posso mostrare alla radio un pezzettino di una cosa molto divertente che ha fatto Max Pezzali giovedì sera a EPCC? E vai. Poi c'è Cattelan. Allora, vediamo, cosa ti fai? Se la situazione lo consente, senza mettere a repentaglio la vostra vita. Ho sbagliato. Cercate di soffocare il principio di incendio con un estintore, seguite sempre. Allora, ovviamente era Let It Be, ma hai fatto cantare a Max Pezzali Let It Be con le parole delle istruzioni antincendio degli studi di Sky, tanto Max Pezzali utilizza la metrica nella maniera più elastica. Un po' come vuole, sì, è un po' come sai, esatto, quando, non so, senti Mariah Carey, dici, ma quella con quella voce può cantare anche l'elenco del telefono. Ma quello con mettere, quella può metrica. Mettere in metrica. Può mettere in metrica anche l'elenco del telefono. Noi gli abbiamo fatto cantare le norme antincendio, ma poteva essere qualunque cosa, insomma, lui ha questo talento per riuscire a far entrare ogni parola dentro quello che vuole, ecco. A un certo punto, Alessandro, hai lanciato un appello: Taylor Swift retweetami. Sì, sì. E ha twittato, eh? Eh beh, ragazzi, cioè, mentre era lì. E poi tu lanci anche... Come ha twittato? Chi ha twittato? Lei? No, tu, adesso, è vero, stiamo ancora aspettando la Taylor. No, stiamo ancora aspettando, no. Anzi, diciamo... No, ma perché ha l'influenza, sta girando, è sul set, ma poi ti ritwitta. Esatto. Ha l'influenza, sì. Poi tu lanci anche l'hashtag con la canzoncina degli Street Clerks, molto carina, perché la parte social, l'interazione social con gli ascoltatori, con i telespettatori è fortissima. Sì. Come vivi tu questo aspetto? Ma devo dire molto bene, noi lo facciamo principalmente perché è divertente e siamo, cioè, riusciamo a sfruttare, questo per merito dei nostri telespettatori, diciamo, la parte bella di Twitter, cioè quella che non è cattiva, è simpatica, perché comunque c'è della gente su Twitter che scrive delle robe che fanno proprio molto ridere, per cui noi lanciamo anche lì degli spunti, ma poi chi commenta la nostra trasmissione molto spesso dice delle cose molto più divertenti di quelle che abbiamo scritto noi. Ed è un buon modo, insomma, è una piccola estensione del programma, no? Comunque sia, se mentre lo guardi, segui i social, ti fai due risate anche lì, ecco. Verissimo, sì. È sfruttamento del lavoro altrui, anche in questo caso. Sfruttiamo chi a casa ha un talento comico molto maggiore del nostro, e quindi... È un incontro di creatività, è sì, così, diciamo, che nascono le idee migliori. In tribunale diremmo così. Certo, Daniele. Questa settimana, se non ho letto male, ho letto una tua dichiarazione che dicevi più o meno, ma se mi dicono che copio qualcosa dalla TV straniera mi fanno un complimento, perché quando uno si ispira a cose innovative che ci sono all'estero, tutto sommato non è male. È interessante, sì, no, è vero, questo aspetto, sì, di portare in Italia qualcosa di nuovo. Ovviamente la tua trasmissione è molto tua, in realtà. Non, sì, certo, ci sono dei paragoni anche in Italia, si possono fare. Sì, no, però... in realtà è che poi tutto si riduce molto banalmente al c'è la tazza, c'è la scrivania, copio. Esatto. I programmi americani, cioè il late show è proprio un format, è come dire X Factor, che è uguale in tutto il mondo, perché è un format. In America ce ne sono tre contemporaneamente su tre reti differenti e sono tutti e tre identici dal punto di vista estetico, perché è una grammatica, cioè la scrivania non è un vezzo, non è arredamento, è una posizione che tu hai col tuo ospite. Ovviamente poi la differenza la fanno i conduttori, esatto, singolarmente, ognuno poi ci mette le sue cose. Però, ma proprio in generale, credo che la TV italiana dipenda da quella americana, nel senso, la maggior parte delle cose che noi vediamo, Gira la ruota, La ruota della fortuna, certo, è un programma americano. Chi vuole essere milionario è un programma americano. Tutto quello che c'è, la maggior parte, ecco, tutto no, però la maggior parte di quello che c'è in Italia arriva da lì, perché in questo campo sono i più bravi. Nella moda siamo più bravi noi italiani, nella TV sono i più più bravi loro. Soprattutto nei late show, che è proprio una cosa loro. Molto loro, sì, no, sì, ma sì. Poi è vero quello che dici, cambia il conduttore. Il conduttore fa tantissimo in una trasmissione che ha una grammatica costante, ovviamente il conduttore è quasi tutto. Io ho un'altra curiosità da chiedere ad Alessandro. Ti tendiamo in attesa solo un secondo perché abbiamo un attimo per la viabilità, ma ritorniamo insieme tra un minuto, così sentiamo anche come sta andando sulle strade e autostrade. Ti teniamo in linea solo qualche istante e poi saremo ancora con Alessandro Cattelan a Radio TV tra pochissimo. YouTube. No, non facevo niente, cioè poi tra l'altro ho anche provato, cioè non lo so, ho cercato di darmi all'alcolismo ma non riuscivo a bere perché non... Ho provato a pippare, non riuscivo perché non ho il naso. Cioè, è veramente un disastro. Però ho visto che sei molto attivo sui social. Io ti seguo, devo dire la verità. Non so se anche voi lo seguite. Il profilo è molto carino. Poi è bello stare in contatto con un personaggio così. È Darty Vaddi. Sì. Su Instagram lo trovate. Sì, Darty Vaddi. Darty Vaddi, sì. Non ha ancora però la spuntina blu del profilo certificato. Cioè, solitamente i grandi attori... ma perché forse non ho messo la bio ancora, sai che devi compilare tutto, no, non è così, quello lì è Twitter forse. No, ma anche Instagram forse ci va la bio, cosa avresti scritto? È difficile trovare le lettere per scrivere. Mi è piaciuta un sacco la bio di Darth Vader, anzi di Darty Vaddi, ancora con Alessandro Cattelan. Allora, intanto ricordo l'appuntamento con E poi c'è Cattelan e PCC il giovedì sera su Sky 1. Poi è ovvio, lo dicevamo, giovedì sera, ma poi si sa che lo si recupera, non dimendi, ormai siamo moderni con la TV. Siamo moderni, però, siccome noi non diciamo chi c'era dietro questa maschera di Darth Vader, ma qualcuno avrà capito un po' dalla voce, avrà allora intuito non l'hanno detto. Chi poteva essere, ma... Non vogliamo svelare questi misteri. Ti chiedo se esiste davvero una generazione MTV dei conduttori, cioè se davvero la nuova generazione dei conduttori dei 35-40 anni di oggi è figlia di quello spirito del tempo lì, come tanta musica e tanti conduttori sono stati figli della generazione DJ Television. Te lo chiedo anche perché poi, avendo Campo dall'Orto arrivato fino ai vertici della Rai, quindi forse è ben augurante. Ma chi lo sa, no? Ma credo che stia il bene prossimo a Sanremo, per dire. Poi ti chiediamo di Sanremo. Secondo te esiste una generazione MTV che si è fatta largo? Beh, adesso non vorrei dire una stupidata, però credo che tutti i presentatori o insomma gente un po' del mondo della TV, dell'intrattenimento in generale, che hanno meno di 40 anni vengano da MTV. Non credo ci sia nessuno che stia lavorando in televisione sotto i 40 anni, forse Alvin, che però insomma sì, non era MTV, ma comunque anche lui veniva da esperienze simili, eccetera. Se no, gli altri sono tutti usciti di lì. E questo perché, guarda, ne parlavo qualche tempo fa, siccome c'è stata questa cosa del cambio del nome, della chiusura di MTV, certo, eccetera, è capitato di parlarne e MTV è stata un po' snobbata ai tempi. Andavi in giro a fare i programmi e c'era un botto di gente che ti seguiva, però non veniva presa sul serio dalle TV generaliste, per esempio. Non venivamo considerati colleghi, nel senso non venivamo considerati, certo, presentatori televisivi. Eravamo considerati, sì, dei ragazzotti che andavano in giro a mandare dei video, eccetera. Però poi quando andavi tu in giro vedevi che c'era una risposta della gente pazzesca. Siamo sempre stati un po' snobbati, non parlo di me nello specifico, ma proprio di tutti. Poi però adesso mi sembra che la maggior parte ci stiamo collocando, ecco, diciamo così. Mentre parlavi pensavo che la generazione precedente erano quelli che hanno fatto la TV dei ragazzi, cioè tu. Io ho fatto la TV dei ragazzi nella generazione in cui già non contava più niente. Che sfiga, ho proprio sbagliato. Tra l'altro eri giovanissimo, perché sennò sembra che sei di qualche generazione. No, infatti io ho fatto la TV dei ragazzi quando invece dovevo fare MTV. Vabbè, ragazzi, no, hai citato Sanremo, Daniele, ma tu lo faresti Sanremo, Alessandro? Beh, sarebbe una figata. Ma sì, grazie. È una cosa che mi chiedono sempre, cioè mi chiedete sempre più che altro voi, in realtà non me l'ha mai chiesto nessuno. Ah, no, cioè nel senso i giornalisti nelle interviste te e lo se chiedono. Ti chiamano tu dici no, i giornalisti che vedono questo futuro per... però non me l'ha mai chiesto nessuno in realtà. Però sì, sarebbe una cosa bella, però io intanto sono lì a Sky, ho appena prolungato il contratto, insomma, no, per un po' non se ne parla. Ti godi per un po' Rogoredo Beach. Sì, che, esatto. Fermo restando che appunto spiagge di Rogoredo. Mai chiesto. No, beh, però effettivamente uno dice la generazione dei... tu non hai neanche 40 perché sei del Tortona's Finest dal 1980, come recita la tua bio su Twitter, è quella che dovrebbe rottamare... ah no, era un altro quello che rottamava, non era un conduttore delle... Vabbè, siete beh, voi. Prima o poi, quindi... sì, no. Ma poi anche il fatto che lui ha la conduzione perfetta per questi show in cui il conduttore deve arrivare con una cosa... puntuale in un determinato momento, divertente, ma poi anche saper scomparire e dare la scena agli altri, no? Forse per quello che te lo chiedono, non per difendere i giornalisti. Sì, no, boh, sì, no, credo perché sì, come programma è tutto sommato simile a X Factor, anzi, per onore di anzianità, X Factor è simile a Sanremo come struttura. Sì, solo che adesso Sanremo vi ruba praticamente tutti i cantanti, quindi c'è questo problema qua. Sì. Che... No, beh, ma noi X Factor serve proprio a questo, certo. Cantanti a Sanremo, cioè X Factor piuttosto che gli altri talent, sono un po' le nuove case discografiche, cioè serviamo a tirare fuori qualche talento interessante che poi una volta finito lì deve farcela con le sue gambe. Però sì, noi siamo la cantera di Sanremo, diciamo. La cantera, come il Barcellone, il Barça. Fantastico. Esatto. Alessandro, ma chissà se ti fa l'Alessandria in semifinale. Ah, è vero, appunto, tu che sei tortonese, non lo so. Sì. C'è rivalità sì, o tifo? Ma io in realtà sono del Dertona, quindi ci sarebbe rivalità con l'Alessandria, però quando una squadra comunque che hai visto mille volte perché sta a 10 km da casa tua raggiunge questo livello, ovviamente tifi per lei. Soprattutto considerando che gioca contro una delle squadre che detesto di più. Bravo. Mi viene anche facile. Io andavo a vedere con mio nonno sempre i grigi dell'Alessandria e anche per me il Milan è una delle squadre che detesto di più. Sei pronto per diventare un bravo presentatore. Guarda, soprattutto sono un fan, vedi che facevo bene essere fan di Cattelan. Alessandro, grazie per essere stato con noi. Grazie mille Alessandro Cattelan. Grazie. E PCC. E poi c'era Cattelan, è stato Radio TV. C'è Cattelan e non c'è più adesso, però abbiamo ancora tempo? Abbiamo ancora tempo, sì, parliamo un po' di... Allora, intanto voglio festeggiare le Barbie. Sì, le Barbie. Io voglio una Barbie adesso, voglio una Barbie piccolina, un po' tondina, un po' culona, con i capelli scuri, ricci. E scusa, non perché possono assomigliare a noi, quindi io voglio una Barbie un po'. Ma un po' no, come ma me. Tu non sei così, no? Quindi sì, una Barbie brava conduttrice. Sì, una Sai che è andata conduttrice. Sulla copertina del Time questa cosa, di Time. Certo, America. Perché adesso le Barbie saranno non più solo fisicamente perfette, tutte uguali, ma avranno delle fisicità diverse. Secondo me c'è un po' di politically correct in questa cosa, però vabbè, devi coprire tutti i settori del mercato. Sì, sicuramente. Sì. Devo anche dire che io sono cresciuta giocando a Barbie come se non ci fosse un domani ogni giorno della mia infanzia, ma non ero bionda, alta, magra, con gli occhi azzurri, ma non è che mi turbasse. Non è che Ken fosse storpio, brutto, ciccione. E poi in realtà poi si cresce e si capisce che non metti quel bellissimo vestito da sera turchese con le paillette. Che quello lì. Ne avevo uno che dovevi staccare la testa della Barbie per infilarlo. Cioè? No, sì, aspetta, questa è una cosa grave. Tu dovevi staccare la testa per mettere un vestito. Avevo un vestito da sera e ce l'ho ancora della Barbie, quindi lo porterò alla notte. Generazioni rovinate. Lo porterò alla notte di Nicoletti, la notte delle Barbie. Voglio portare questo vestito della Barbie di tulle turchese. Perché porta anche molto... la testa della Barbie. Sì, il problema è che però il vestito aveva un buchino troppo stretto per la testa. Quindi dovevi staccare la testa della Barbie, infilare il vestito e riattaccare la testa della Barbie. Ma perché le Barbie si potevano cambiare tanto d'abito? Ma era cioè, il gioco principale. Era il gioco. Non lo so, io non lo facevo perché, non mi capitava. Allora, Barbie e dall'America ancora, tu sai che in America questa settimana ha vinto il dibattito delle primarie repubblicane, quello che non è andato al dibattito, l'hanno detto più o meno tutti in rete. Donald Trump non è andato. E perché dici che ha vinto il dibattito? Perché praticamente lui ha litigato, cioè non gradiva la conduttrice, una delle giornaliste del dibattito dei repubblicani, quindi ha detto io non ci vado, faccio eventualmente un controdibattito. La Fox addirittura ha detto ah, ci ha chiesto 5 milioni di donazione alla campagna elettorale pur di venire. Trump si è ancora più arrabbiato, insomma, così ha oscurato ovviamente i temi del dibattito con la sua grazia, la presenza, la sua discrezione, cosa che non gli riesce mai tra l'altro, infatti, di oscurare tutto il resto. Lo so, è ma fatto ce l'abbiamo così. Abbiamo un Trump da mostrare alla radio. See, the point is that with me, they're dealing with somebody that's a little bit different. They can't toy with me like they toy with everybody else. So let them have their debate and let's see how they do with the ratings. Let them have the debate. Lasciaglielo fare sto dibattito e vediamo come vanno senza di me che li ascolti. E da Trump facciamo un collegamento che non verrebbe a nessuno. Con chi? Ma con un politico italiano. Con... no, non ho idea. Non verrebbe a nessuno. Un politico che però anche lui è di centrodestra come Trump. Anche lui come Trump non è proprio povero in canna. Mm-hmm. Anche lui come Trump c'entra col mondo dello spettacolo, della televisione. Arrivi anche all'argomento come capelli o quello lo lasciamo perdere? Dove ci avevo pensato? Perché a me le battute migliori mi vengono durante la pubblicità e a Marta Cagnola in diretta? Guarda che è una cosa strana. No, sta adesso qui. Lo dico agli ascoltatori. Ha fatto io, un paio di battute fulminanti prima dell'inizio di Radio Tube. Seguitemi nella pubblicità e durante il traffico perché sono fenomenali. In diretta un po' meno. Ha fatto due battute. Ma cosa ha combinato? Comunque, Berlusconi, Silvio Berlusconi è lì che studia perché lui è secchione. Questo è vero, eh? Vero, lui verissimo. Lo si sa da sempre. Siamo anche un po' brianzoli. Decide una sì. Adesso ho scoperto una cosa nuova. Cosa? Non fare quelle facce. Cosa? Quando ho detto scoperto, hai fatto la faccia che ci cacciano. Noi prima di altri. Allora, ha scoperto internet. No, anche perché secondo me ha già scoperto internet. Ma non aveva già usato Google. Come secchione, senti cosa sta facendo. Senti. Sentiamo. Se sapessimo parlare anche alla piazza di internet come non abbiamo saputo fare, ed è comprensibile perché io vengo due generazioni prima di internet, adesso sto studiando, sono la terza lezione su 10 di internet. Io internet non ce l'ho in simpatia, naturalmente. Poi in privato a qualcuno racconterò qualche episodio. Scusa, ma che... In 10 lezioni. Chissà che cosa c'è alla terza. Non lo so. Scusate, non ce la faccio. Le 10 lezioni. È un uomo di internet. Fantastico. Ma è straordinario. Lui è alla terza. Primo, chi sta facendo lezioni? Noi cerchiamo il maestro di internet di Silvio Berlusconi. Poi anch'io voglio questo bigino, questo internet for dummies in 10 lezioni. Fantastico. Esatto. Potremmo fare anche, non so, noi un corso in 10 lezioni. Sì. Lo diffondiamo sicuramente. È finita. Niente, ma quando fai quel gesto lì terribile. Ma no, è finita. Faccio notare che è finito il tempo a nostra disposizione, è dobbiamo finita. Andare a studiare con, le nostre con Silvio Berlusconi e Donald Trump finisce che questo fantastico momenti. Sabato del villaggio e finisce anche il nostro Radio Tube. Ciao. Al prossimo sabato.